Praticamente a Milano abbiamo aderito a questa iniziativa nazionale con i padri Combognani, è un'iniziativa che è in una ventina di città d'Italia. Ci è piaciuta subito la proposta radicale di chiudere i CPT e abbiamo cercato di rimettere insieme tutte le associazioni e gli organismi istituzionali eccetera che si stanno muovendo a proposito di problemi di immigrazione eccetera, e ci siamo ritrovati attorno ad un tavolo per discutere come fare questa mobilitazione. Allora la nostra mobilitazione sarà in una piazza centrale di Milano, quindi San Babila, e sarà dalle 11 di mattina in poi. In preparazione a questa abbiamo anche organizzato una serie di occasioni di discussione in giro per la città. Per esempio ieri sera c'è stato un incontro in Camera del Lavoro con la proiezione del video che parla di CPT della trasmissione Report, e idem è stato fatto in un'altra zona un po' più periferica a Baggio, che è sempre qui a Milano. È stato organizzato dal Social Forum di Baggio e dalla rete Lilliput. Insieme a queste cose, questa sera verrà organizzato un altro dibattito dall'ARCI, dell'ACI di Milano, e ci saranno una serie di altre iniziative con gli studenti dell'Università Bicocca e dell'Università Statale. L'idea nostra è domani di trovarci appunto alle 11, però alle 5 di fare anche un piccolo corteo verso la prefettura, che è a poche centinaia di metri di distanza, quindi ci sarà anche un corteo di che passerà a fianco della prefettura e poi ritornerà nel luogo del presidio. E noi in occasione di quello pensiamo anche di utilizzare una nave di cartapesta che abbiamo costruito qualche tempo fa fatta come un carro allegorico, è montata in un camion, sono circa 10 metri. Questa nave qui che cos'è? È una riproduzione di una nave piena di migranti che è affondata nel mare di Sicilia nel Natale del 96, mi pare, e con 300 persone a bordo. E questa nave non è mai stata recuperata. Ci sono le prove, le fotografie, subacquee, tutto. La nave c'è, l'incidente è successo, si è cercato di recuperarla, ma nessuno ha voluto farla. L'abbiamo ricostruita in un centro sociale di Milano che si chiama Leoncavallo. Abbiamo fatto un piccolo cantiere navale, l'abbiamo ricostruita a significare appunto la nave dei diritti negati.